sono stati temerari. Sono stati capaci di osare. Hanno fatto un provino per diventare musicisti rock con la bocca. Ma avranno il fattore rock? Pane, burro e rock and roll presenta il primo reality telefonico della storia della radio. Il grande fattore, alla scoperta del fattore rock. Verranno chiamati nelle ore più impensabili, saranno sottoposti alle prove più dure, dovranno dimostrarci di essere autentici rocker. Solo allora scopriremo chi fra tutti loro ha il fattore rock. Prossimamente qui su Rock FM. La domanda di quest'oggi era: ma Tom Morello, il celebre chitarrista dei Rage Against the Machine, ha forse origini italiane? La risposta A ipotizzava che suo bisnonno fosse toscano. No, Morello però non ci risulta. E allora forse ipotizzava la soluzione B: suo nonno era calabrese. Guardi, questa gliela passo. È vero, Don Morello dichiara personalmente: mio nonno era calabrese, orgoglio italiota. Evviva la Calabria Saudita. No, sto scherzando, tutti calabresi in nascosto. Che poi i calabresi a volte sono anche un filo grandi interpreti, ma voglio vediamo dire come se la cava, un filo per Malusetti. Per Malusetti, adesso mi aspettano fuori. Speriamo che gliene diano un paio di quelle buone. Io scherzavo. A tutti i calabresi in ascolto, I love you. Come sono andato? Molto bene. Speriamo. Ruffiano al punto giusto. Speriamo. Crosses. do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Non farò quello che mi dici di fare. Vai a quel paese. Così, alla buona. Rage Against the Machine, Killing in the Name, e via. Ma quante se ne scoprono giorno per giorno grazie ai nostri test attitudinali. E allora un Tom Morello con origini calabresi, fa piacere saperlo, eh? 8 e 36 minuti primi, l'ultimo blocco di diretta di Pane, Burro e Rock and Roll per questo 17 di marzo. Il nostro SMS sta scoppiando quest'oggi per un paio di questioni. Quella del rugby, che vedo con molto piacere interessare molti dei nostri radioascoltatori e delle nostre radioascoltatrici, e questa segnalazione scottante che ci è stata fatta riguardante il canale televisivo Tele Lombardia, che tra l'altro quindi vedono solo gli amici di Milano, perché presumo non si veda Tele Lombardia nelle altre regioni, dove ci segnalano questo spot anti-rock dove una Smoke on the Water viene rimpiazzata da musica liscio. Molti commenti anche su questo argomento, che arrivano anche dalla Romagna, da radioascoltatori e radioascoltatrici che probabilmente così hanno un rapporto anche più intimo con la musica nel liscio, visto che arriva da lì. Io così a freddo risponderei al volo, perché tante sono anche le risposte violente che bypasserò. Risponderei con questo: Franz 79 da Grosseto. Lui dice: sono rocker, ma dopo una serata in sagra a suon di tortelli, mani e vino, un liscio con la mia signora comunque ci scappa. Io risponderei così, poi lavoriamo nelle prossime giornate, sarebbe carino anche rintracciarlo questo spot, perché a questo punto sono curioso, vorrei sentirlo. Mi segnalano anche addirittura che questo spot sembra sia girato negli studi di Rock TV. E allora però è colpa di Rock TV, ragazzi, se gliel'hanno fatto far lì non è. Mi informerò comunque, andremo a fondo anche a questa situazione. Come andremo a fondo per altre questioni che tratteremo nell'ultima mezz'ora di PBR, da qui fino alle 9, che intanto prosegue con le bombe spagnole. Clash! Benito, yes, the quella, oh my god, I thought Spanish bombs, yes, the tiro is benito, yes, the quella, oh my god, I thought Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one, after they died it was mocking murder. Back from the buses, went up in flashes, tornito. Jazza quera, oh ma cara Spanish pop. Jazza quera, oh ma cara quera, oh ma cara. Granada. Roberto, non offenderti, mi sembri più in sbattimento del solito. Ma sì, sì, sì. Ho il fiatone, ho il fiatone. Successo. Ma dunque, pensavo di aver messo la macchina da qualche parte. Sì. Non ricordo più bene dove. Sì. Da stamattina e non riesco a trovarla. Non l'avrei mica messa in doppia fila. Ma può essere. Devi stare attento perché Peretti, se te la becca in doppia fila va a finire malissimo. Non evocarlo. Chi? Il portinaio portiere Peretti? Sì. Anche se oggi come oggi sì. Preferirei custode. No! Portiere e portinaio bastano. Non custode? Le è sembrato di sentire qualcosa? Volevo proporre una Io ho sentito entry. Qualcosa. No! Il campanello! No! Oh, buongiorno! Buongiorno, signor Peretti. Ma come state? Signor Peretti, questo condominio da quando c'è lei sembra una reggia indiana. Oh. Uno splendore. Che c'è sempre anche un indiano che viene a trovare. Ogni tanto si sta passando. Sì, signor Rundi. Mister Rundi. E se non sta attento, l'ultima volta l'ho visto che perdeva due granelli di riso. Aia. E mi ha sporcato il pavimento che l'era specchiante. Guardi, se lo vuole portare nello stanzino quello dove picchia i condomini un po' così, lo faccia pure, perché non devi stare qua. Ma non esiste quello stanzino. Ah. Ma chi gliel'ha detto? Era uno scherzo. Ha detto, c'è uno stanzino Bonaio. Dove picchia. Ah, voi della televisione siete sempre Radio. Avete la battuta pronta, sì, vi invidio per quello, veramente. Non sarà venuto per caso per la macchina in doppia fila di Fricantoni? Ecco, c'è questa cosina che un po' mi ha indispettito. Proprio la macchina di Roberto Fricantoni. Aia. La macchina di Fricantoni questa mattina è stata parcheggiata in doppia fila. E sì. E accidenti, la macchina bloccata, quella in prima fila, parcheggiata regolarmente, sì. Era proprio la mia, dottor Aia. Ariele, me la paghi. Sir Peretti non l'avrà mica spostata. No! No. Non mi permette. Non l'ha fatta mai. A portar via dal carro attrezzi. No, sarebbe stato divertentissimo. No. Io ho solo lasciato un appuntino, dottor Antonio. Un appuntino? Sì. Un post-it? Sì, immagino. No. Foglietto. No. Fogliettino sul parabrezza. No. Un appuntino così se lo ricorda la prossima volta. Ma come l'ha lasciato l'appuntino? Io l'ho fatto col cacciavite. Ha inciso sulla portiera? Sì, c'è proprio scritto. Che se lo rifai, ti piglio per le orecchie e ti scarto come una caramella, Golia. Arrivederci, Antoni, si ricordi. Arrivederci, signor Peretti. Arrivederci. La porta, mi raccomando. Senti, ma ha scritto se lo rifai, ti piglio per le orecchie e ti scarto come una caramella, Golia. È arrivato anche sul davanti. No. Sì. Due portiere non bastano. Spendo una fortuna in carrozzeria. Peretti mi porta sfiga. E me che c'è? Passenger. Now ride and ride. see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How it rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. This is the winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, 'cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window side. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride. Iguana Iggy Pop con la sua Passengers. La la la la. Andiamo a sdoganare una rubrica che fin dai primi vagiti di Pane, Burro e Rock and Roll era nell'aria, perché da subito con il maestro Roberto Fricantoni abbiamo avuto chiaro la situazione, il reparto ortomercato bisognava sondarlo. Ringrazio Alessio, il nostro ambulante di riferimento. Ciao Alessio. Buongiorno. 27 anni, dalla Toscana che conta. Oggi dove siete col mercato? Rosignano Solvè. Ah, dove ci sono le spiagge bianche. Sì, sì, con la fantastica cosa, insomma, artificialmente bianca. Sì, sì, molto Seychelles. Sì. O no, va bene. Ma questo, no, guarda, questa non, è un'altra questione. Non indaghiamo. Non indaghiamo. Non... Mi hanno segnalato, Alessio, che in televisione c'è già la rubrica Occhio alla spesa. Ce l'hanno rubata prima ancora di iniziarla, guarda. Chiaramente. Non riesco veramente a rendermene conto. Allora, Alessio non ha un banchetto di frutta. Lui vende occhiali da fricchettone. Chiaramente. Ma ce l'ha un nome il tuo banchetto? No, così. No, no, ma siamo gli unici occhialai che ci sono al momento. L'altro segnalo agli amici toscani, fatevi un giro a Rosignano, fino a che ora stai lì a Rosignano Solvè? Ma di solito stiamo qui fino verso mezzogiorno e mezzoluna. Esatto, andate a prendervi un paio di occhiali da Alessio e dite mi ha mandato Pane, Burro e Rock and Roll. E noi faremo sconto. Bravo, così mi piaci. Ma occupiamoci di Occhio alla spesa, pensionati all'ascolto, state attenti perché ringraziamo Alessio che in diretta va a vedere quanto costano i prodotti, ma ringrazio anche Simon che via mail ci fa arrivare, come si può chiamare, il bollettino dei prezzi preciso. Mi è arrivato stamattina, Alessio, quindi io sono aggiornatissimo. Da cosa partiamo? Ma senti, io sono andato a indagare su, diciamo, tre prodotti base. Ok. Che erano le arance tarocco. Arance tarocco, sì, quelle siciliane. Sì, sì, che sono buone, però sai, insomma, il nome non è che ispira bene. Perché tarocco, dici? Sì, perché tarocco. Filo sì. Battuta di merda. Quanto ce le avete lì a Livorno? Allora, qua li abbiamo a 1,05 €. Guarda, sulla mia tabella ho 1 euro di minimo e 1,20 € di massimo, quindi conviene. Beh, dai, ci stiamo dentro. Complimenti, vince la Toscana su Milano. Passiamo a un altro prodotto. Attenzione, pensionate all'ascolto. Sentite come stanno messe le mele a Livorno. Allora, le mele qua vengono 0,95 al chilo. Sì? Beh, io qua ho un minimo di 0,85 e un massimo di 90, quindi siamo nel range. Beh, quello sì, lì. Più o meno, perché poi ora analizziamo l'ultimo prezzo e poi vi do un trucco da vero rocker. Attenzione, l'ultimo prezzo andavamo sul finocchio. Sì, così. L'ultimo prezzo andavamo sul finocchio, esatto. E qua lo teniamo a 1 euro al chilo. Finocchio pugliese abbiamo da 0,65 a 0,78, qua è sopra il massimo. Attenzione, vi stanno fregando su quei finocchi. Facciamo un po' allarmismo, Alessio. Se sì, non infatti. Se non ha senso. No, ma allora. Qual è il trucco davvero rocker? Allora, il trucco è davvero rocker perché chiaramente il mercatario ambulante, sì, tiene il prezzo più alto. Perché okay, deve fare, diciamo, più incasso la mattina presto. Ok. Però, se qualcuno va al mercato più tardi, tipo verso mezzogiorno e mezzo quando stanno chiudendo, i prezzi sono dimezzati, perché piuttosto che buttarla via trattano la roba, perché trattano proprio la svendono, e quindi insomma i prezzi potrebbero scendere sensibilmente. Tra l'altro la rubrica sui consigli per andare al mercato mi piace ancora di più, Alessio. Quindi tu dici, se dovete andare a prendere frutta e verdura, aspettate fino a mezzogiorno, 11 sì, e mezza, e magari fate anche quelli, sì, mi interessano le mele ma forse no, una roba così così ve le tirano dietro. Sì, infatti può essere una buona idea. Grazie mille, Alessio, facci sapere se qualcuno viene a prendere gli occhiali a Rosignano Solvay. No, non mancherò. Dai. Ciao, a ciao, presto. Ale, buona giornata. E ringrazio ancora anche Simon, invece la controparte milanese, che dall'ortofrutta ci ha segnalato i prezzi belli precisi. Si chiama Bruce Springsteen e questa è My Hometown. Ho sempre sognato di fare una rubrica sull'ortofrutta, non lamentatevi. chiusura in dolcezza quest'oggi. Ma sì, dai, lunedì va bene chiudere belli dolci. Bruce Springsteen, My Hometown. Ocio perché mancano pochi minuti alle nove. E questa è la fine della puntata di Pane, Burro e Rock and Roll 205. La troverete su RadioRockFM.com tra qualche minuto, come su myspace.com/paneburrofm. In molti ancora mi hanno chiesto di Allegretto, ma non troppo, come fare a scaricare la canzone di Freak. Sarà su ancora per qualche minuto, quindi vi conviene tuffarvi su myspace.com/paneburrofm e si può scaricare gratuitamente ancora per qualche ora, fino a quando Isaac Rizzi di Buzzo Buono metterà gli interventi di quest'oggi, forse, o prolunghiamo, boh, lo decideremo. E a posto, ci si risente domani, eh? Pane, burro e rock and roll. L'appuntamento è fissato qui su Rock FM. La tua colazione rock. Saluti a Francesca, patente 740. Pane, burro e rock and roll. Che mi faceva l'offesina perché non l'abbiamo chiamata. Mannaggia, raduno surrealista sui cavalli. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Yo, yo. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock and Roll. Ogni giorno alla mattina, dopo Pane, Burro e Rock and Roll, c'è Marco Gravaus. Presente. Hanno dato il cucchiaio di bronzo a Freak? Per cosa? No, quello non ancora. Cioè, ho una battuta ma non la faccio. Okay. Senti, a proposito di meteorologia, ieri a Gallarate venivano giù i tocchi di grandine, ma giganti. Anche a casa mia, alle 18:30. Sì. Così. Ma così. Grossi. Ho avuto un attimo di panico anche perché penso sempre temporale alla macchina. Temporale estivo? Ah beh. E perché c'ho la macchina fuori. Ho pensato, cosa faccio? Vado fuori con l'ombrello. Sto diventato in groviera? No. Poi ho pensato, dai, per la macchina che c'ho può anche andare via. Fa molto più rock avere la macchina un po' bozzata. Giusto. Ma tu ce l'avevi nel garage o ce l'hai anche tu esterna? In the box. Ah, tu c'hai il box. Immaginati. Lo sapevo, potevo immaginarlo. Lo devo fare, ancora per poco, però no. No, come? Garage, il cliente l'ho stretto il box. Sì, sì. Sono tempi duri. Ci si risente domani. Avrei da giocarmi questi 20 secondi, ma va bene. Si risente domani. Giochiamo i dadi. Potremmo parlare di Zorro, se no. Ancora? A che puntata siamo arrivati? Alla 4. È finito lì. Dici? Finita lì, veramente. Sono le 9. Vorrei tanto essere altrove. Non ti preoccupar, che domani tornerà.